Salva Danaio di Deborah Rosciani. Avevamo già parlato di questa eventualità nell'ultima trasmissione dedicata a questo argomento, ora l'eventualità si è concretizzata, arrivano con il maxi emendamento al decreto incentivi 100 milioni di risorse per il rimborso dei piccoli obbligazionisti di Alitalia. Rimborsi che saranno effettuati attraverso l'emissione di titoli di Stato, in ogni caso non potranno superare i 100.000 euro, ve ne spiegheremo nel corso della trasmissione la dinamica. Insomma, BOT e CCT in cambio dei vecchi Mengozzi BOT. Per chi si è lanciato nel calcolo di quanto potrà rientrare nelle tasche degli sfortunati investitori, avrà già avuto modo di appurare che, secondo quanto anche ha commentato il collega delle Sole 24 Ore Fabio Pavesi qualche giorno fa, si tratta di poche briciole. È pur sempre qualcosa, soprattutto se si tiene conto dei tempi con i quali il governo ha agito, dinamica che non si è mai vista in nessun altro caso di risparmio tradito in passato nel nostro paese. E certo, sono comunque da considerare tempi scontati, dato che parliamo della vecchia compagnia di bandiera. C'erano state delle precise promesse da parte del governo quando è avvenuto il passaggio di proprietà di Alitalia alla cordata guidata da Roberto Colaninno. Berlusconi e Tremonti avevano detto: gli italiani non perderanno un centesimo. In realtà, secondo questa proposta di indennizzo, ne perderanno un bel po', e di fatto al momento sono ancora a bocca asciutta dopo la sospensione della quotazione del titolo avvenuta il 4 giugno scorso. 40.000 obbligazionisti e una cifra imprecisata di azionisti che è assai improbabile possano recuperare qualcosa. E in tutto questo si sta preparando il terreno ad un'assemblea degli obbligazionisti che è stata organizzata da una società di gestione del risparmio, Anima SGR. Dunque anche stamattina abbiamo un bel po' di cose da raccontare. Sono attivissime anche sul versante Alitalia le Associazione dei consumatori. Allora oggi ritorniamo su questo argomento, invitandovi come sempre a chiamarci all'800 24 00 24, a scriverci al 349 238 6666. Saluto l'amministratore delegato di Anima, Alberto Foà, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. E saluto anche Fabio Picciolini, segretario nazionale della Diconsum. Picciolini, bentornato anche a lei. Buongiorno. Nella seconda parte di Salva Danaio ci collegheremo anche con l'avvocato Gianfranco Graziadei, rappresentante comune degli obbligazionisti all'Italia. I numeri per intervenire ve li ho ricordati, adesso andiamo ad altri numeri che sono quelli della borsa. Giornata che era stata in avvio negativa, poi c'è stato un cambio di nuovo di direzione, adesso c'è un quadro contrastato, alcune piazze hanno il segno più, altre il segno meno. Milano è leggermente positiva, ma pare che ci sia l'intenzione di consolidare i rialzi che le borse sono riuscite a mettere a segno ieri. Giornata di rally molto interessante, molto buono. Marzo è stato buono complessivamente, ieri eravamo già insomma le prime giornate di aprile, ma c'è stato questo, come dire, plauso generale sia all'esito del G20 di Londra, ma anche alla riduzione del costo del denaro nell'eurozona. La BCE ha portato i tassi di interesse all'1,25%, ci sarà probabilmente in maggio un altro taglio, ma qualcuno ha visto in questo taglio parziale dello 0,25% come una misura positiva, come un segnale, come a dire il peggio è passato, quindi possiamo agire sulla leva monetaria in maniera un po' più prudente, un po' meno aggressiva rispetto a quello che è stato necessario fare negli ultimi mesi. Vola Piazza Affari Pirelli più 7,37%, c'è un giudizio positivo di Intermonte. Prismian più 6,66%. Una buona giornata per il settore bancario, non per tutto. Unicredit più 4,30, Buzzi Unicem più 3,87, Unipol più 3, Italcementi più 3, Mediaset più 2,42%. Ieri Fiat, ne abbiamo parlato tanto, ha fatto più 27%, stamattina è partita con un ribasso di 3 punti, era anche abbastanza fisiologico aspettarselo, e invece adesso ha ricambiato direzione e sta guadagnando quasi un punto percentuale. Giù UbiBanca, meno 2,47, Snam Rete Gas meno 2, Davide Campari meno 1,81, ribasso di un punto e mezzo su Eni ed Enel, Luxottica meno 1,30. Continua, ripreso un po' a correre l'euro sul dollaro a 1,34,31, probabilmente sulla scia dell'intervento sui tassi operato ieri in Europa. Oggi attendiamo il dato sulla disoccupazione americana che verrà divulgato nel primo pomeriggio. Direi che possiamo lasciare la borsa magari ricordando che il petrolio è tornato leggermente al di sotto dei 52 dollari al barile. Lasciamo la borsa, andiamo invece adesso di nuovo ad Alitalia. Obbligazioni Alitalia in cambio di titoli di Stato. È questa la proposta del governo ai titolari di obbligazioni della vecchia compagnia di bandiera. La novità è contenuta nel maxi emendamento al decreto incentivi e riguarderà i possessori di bond emessi con il prestito Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile. Per calcolare il valore delle proprie obbligazioni si dovrà fare riferimento al prezzo medio di borsa nell'ultimo mese di contrattazioni prima della sospensione e ridurlo del 50%. Per questa somma, il Ministero dell'Economia attribuirà titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012 e con un taglio minimo unitario di 1.000 euro. Le assegnazioni non potranno comunque essere superiori a 100.000 euro per singolo obbligazionista. Per presentare la domanda al Ministero dell'Economia ci sono 90 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge, pena la decadenza del diritto. E dentro il 31 dicembre 2009 il Ministero provvederà a trasferire i titoli di Stato spettanti sui conti di deposito titoli indicati nella comunicazione. Il rimborso dei nuovi titoli emessi sarà garantito da un apposito fondo di 100 milioni di euro. Ma c'è poco da rallegrarsi. I Mengozzi bond sospesi dalle contrattazioni del 4 luglio scorso sono stati revocati ad un valore teorico di 65 centesimi, che dimezzato garantirà agli obbligazionisti il recupero di appena il 30% dell'investimento iniziale. Intanto, le speranze dei possessori di bond all'Italia sono riposte nell'Assemblea degli obbligazionisti di fine aprile, che è chiamata a discutere e deliberare sullo stato di avanzamento della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia, sulla possibilità di recupero del credito e sulla valutazione di eventuali iniziative giudiziarie volte a tutelare i diritti degli obbligazionisti in caso di mancato recupero totale o parziale. 800 24 00 24, torno a ricordarvi il numero verde per intervenire questa mattina. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666 ed era abbastanza naturale attendersi che le prime considerazioni degli ascoltatori in arrivo riguardassero gli ex azionisti, che a questo punto è abbastanza improbabile, come dicevamo prima, possano recuperare qualcosa. Adesso dedicheremo anche a loro un po' di attenzione. Andiamo però intanto alle novità che sono arrivate nelle ultime giornate. Parto con Alberto Foà, amministratore delegato di Anima. Ricordiamo ancora una volta come è maturata la decisione di indire, di farvi promotori di questa assemblea del 20 aprile e a che punto siete con la raccolta delle deleghe. Ma noi stiamo raccogliendo le deleghe tramite il nostro sito www.fondianima.it, stiamo procedendo con la raccolta delle deleghe, ci sono arrivate molte adesioni, so che si stanno muovendo anche altre associazioni o altre istituzioni, lei ha ricordato prima la di Consum. Adesso ne parliamo direttamente con loro. Sì. In più molti risparmiatori ci hanno chiamato dicendo che interverranno anche direttamente, cosa della quale ovviamente siamo solamente contenti. Interverranno direttamente in che senso? Ah, nel senso che non danno la delega, interverranno. A Roma tra l'altro si svolgerà, no? Sì, l'assemblea. Sì. Fino a quanto c'è tempo per poter eventualmente consegnarvi la delega? Ma fino a un paio di giorni prima. Il 10 aprile forse, qui perlomeno ho l'iniziativa di Adiconsum. Fabio Picciolini, allora vengo direttamente a lei, Adiconsum, come si è mossa? Anche voi vi siete fatti promotori di questa raccolta di deleghe per questa assemblea, però vedo qua da un modulo che ho scaricato direttamente dal vostro sito che la delega deve pervenire entro il 10 aprile? Sì, ma questo per un motivo solamente tecnico, perché siccome... E sono parecchi, le persone vengono presso le nostre strutture locali, quindi presso da Milano, da Trento fino a Trapani. È chiaro che poi ho bisogno, visto che sarò io a partecipare, infatti ho visto, di avere a Roma tutte quante le deleghe delle persone, solamente un fatto tecnico, non per altro. Ecco, perfetto, quindi insomma per ragioni di natura tecnica, però ci siamo mossi anche noi insomma in qualità di informatori a dar comunicazione di questa iniziativa, quindi speriamo che siano sufficienti le deleghe per poter poi dare così concreta vita all'assemblea di quel giorno. Alberto Foà, allora di quali obbligazioni si stiamo parlando e perché è Anima che si è fatta promotrice di questa iniziativa, che poi tra l'altro il legale rappresentante degli obbligazionisti è stato abbastanza felice di raccogliere, perché come Grazia Dei ci aveva spiegato anche l'altra volta, noi non avremmo mai neanche avuto il denaro, insomma, quindi i mezzi per poterla organizzare. Ma noi pensiamo che oltre a essere una battaglia diciamo sulla questione in sé, questa di Alitalia sia una battaglia di civiltà del risparmio, diciamo, nel senso che tante cose sono state dette, lei ha ricordato in apertura di trasmissione le dichiarazioni di Berlusconi e Tremonti secondo i quali i risparmiatori che avevano investito in obbligazioni all'Italia non avrebbero perso un centesimo. Ricordiamo che il Tesoro era azionista di Alitalia al 51% nel momento in cui le obbligazioni sono state emesse, è stato ancora, era ancora azionista al 51% nel momento in cui l'assemblea degli azionisti e degli obbligazionisti ha deliberato il rinvio del rimborso al 2007 e al 2010, tra l'altro col voto favorevole del Tesoro, nel presupposto che la società sarebbe stata rilanciata. Ora, questa proposta di rimborsare gli obbligazionisti alla metà del valore di quotazione prima della sospensione e nel limite 100.000 euro, io francamente lo trovo un'aberrazione giuridica. Quindi è un tassello in più che si aggiunge alla lista di cose che già l'hanno fatta arrabbiare. Un'aberrazione di natura giuridica e un'aberrazione di natura morale. Un'aberrazione di natura morale, non sto neanche a spiegare perché. Un'aberrazione di natura giuridica, perché qualcuno ci dovrebbe spiegare perché un obbligazionista che abbia 200.000 euro di obbligazioni all'Italia deve essere trattato percentualmente peggio di un obbligazionista che ne abbia 100.000 euro. Stante il fatto che uno potrebbe aver investito, magari in maniera poco accorta, ma tutti i suoi 200.000 euro in obbligazioni all'Italia, mentre chi ne ha 50.000 euro potrebbe avere 30 milioni di euro investiti in bot presso in un altro conto, diciamo. Quindi non è detto ex ante che i ricchi abbiano poche, molte obbligazioni all'Italia e i poveri ne abbiano poche. Oltretutto poi c'è un tema evidente di disparità giuridica. In più si aggiunge che questa limitazione a 100.000 euro danneggia gravemente gli investitori istituzionali, quindi fondi investimento, fondi pensione o fondazioni che potrebbero avere... Che sono già comunque tra l'altro creditori privilegiati o non c'entra nulla? No, fondi investimento, fondi pensione, fondazioni, assicurazioni sono creditori esattamente come sono creditori tutti gli altri obbligazionisti. Ovviamente un fondo di investimento, un fondo pensione, poniamo che abbia un patrimonio di 1 miliardo di euro e abbia comprato 10 milioni di obbligazioni all'Italia, si vedrebbe rimborsato nel limite di 100.000 euro, quindi percentualmente stiamo parlando quasi di nulla. Peccato che il fondo di investimento, il fondo pensione con un patrimonio di 1 miliardo di euro sia posseduto, sia diviso, suddiviso fra 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 portatori di quote, i quali pro quota, diciamo, avrebbero ognuno 500 euro o 1.000 euro di obbligazione all'Italia. Ora non si capisce perché chi ha affidato i propri soldi ad un gestore del risparmio o a un fondo pensione dovrebbe essere trattato percentualmente così peggio rispetto a colui che invece avesse investito singolarmente in obbligazione all'Italia. No, posso però dire una cosa, io spero che magari il gestore di un fondo pensione, anche se nell'ottica della diversificazione, anche un investimento in Alitalia in passato ci stava, spero che non abbia un'esposizione così ampia come questo. No, adesso non mi sono forse spiegato bene. Il fondo da 1 miliardo di euro che abbia 5 milioni di euro in obbligazione all'Italia ne ha una quota percentuale molto piccola, sì. Ma per la natura stessa del fatto che l'investitore istituzionale gestisce portafogli grandi, anche se abbia se ne ha una quota percentualmente molto piccola, ne avrà sempre, per pochi che sia, quantità pari a 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. Ora, queste quantità, che sono suddivise, come ripeto, pro quota parte fra migliaia di risparmiatori, verrebbero rimborsate nel limite di 100.000 euro. Abbiamo capito. Quindi, perfettamente, insomma, con una percentuale molto molto piccola. E su questo, insomma, voi non ci state. Un altro punto all'ordine del giorno dell'assemblea. Grave discrimine fra, appunto, il risparmiatore che abbia investito in modo diretto e il risparmiatore che abbia investito tramite un fondo pensione o un fondo investimento. Sentiamo Fabio Picciolini cosa pensa rispetto a questo indennizzo, che è anche un meccanismo un pochino complicato che è stato appunto definito dal governo nei giorni scorsi, che tra l'altro, anche se ancora io, come dire, a livello formale non ho trovato questo vincolo, questa precisazione, questa condizione, sembra che, ce lo diceva anche Alberto Foà prima, qualora un obbligazionista accetti questa proposta di conversione si impegna a non avanzare qualsiasi altra pretesa in futuro nei confronti del Ministero dell'Economia, appunto, che lo propone. Fabio Picciolini. Sì, anch'io ho letto solamente agenzie di stampa in cui c'era questo obbligo di, o non obbligo di federazioni contro, questa condizione, cioè, insomma, sì. Sì, che è un po', è diventata un po' una prassi, lo stanno facendo anche altri, l'hanno fatto in passato con l'Argentina, lo stanno facendo adesso con le polizze index, cioè uno per aver ricevuto per qualsiasi motivo dei fondi, fatto un investimento magari mal presentato e comunque con un 30, un 40% di rimborso, chi ha fatto fare l'investimento se la cava tranquillamente. Mi sembra che anche questi acquisti, voglio usare lo stesso termine, mi sembra un po' un'aberrazione. Ma se mi permette, oltre a quello che è stato detto giustamente dall'amministratore di Anima, che saluto e che ringrazio anche per l'iniziativa a cui noi abbiamo ci siamo accodati, diciamo così, perché sembra molto, molto giusto e molto condivisibile. Io vorrei aggiungere due cose. Innanzitutto, noi abbiamo avuto anche una situazione che riguarda la Consob, l'istituto di controllo, noi abbiamo avuto la sospensione del titolo all'Italia per quasi 6 mesi, o anzi per più di 6 mesi, per cui è vero che le cose poi sono peggiorate, però le persone non hanno potuto agire. Liberarsi eventualmente del titolo, o comunque averne il diritto di gestirlo, sì. Non hanno gestito, cioè ci sono voluti dal 4 giugno al 26 gennaio per la revoca dei titoli in borsa, ovviamente sto parlando degli azionisti in questo caso. Sappiamo perfettamente che molto spesso, se pensiamo ad esempio ai dipendenti, c'è un azionista e obbligazionista che quasi spesso le stesse persone. La seconda cosa che viene spesso dimenticata è che la proposta del governo, questo emendamento, prevede anche l'allungamento della durata dal 2010 al 2012, quindi di fatto anche questa è un'ulteriore perdita. Quindi ci sono tante situazioni che a noi non convincono. No, mi scusi, non ho capito questo aspetto dell'allungamento. Beh, l'allungamento, il prezzo convertibile era fino al 2010. Stata una prima proposta di conversione, si riferisce a quel momento lì. Esatto, sì. Esatto. Dopodiché invece si arriva fino al 2012. Poi sono botte BTP, per carità, noi siamo sicuri che lo Stato non fallisce, ma ne parliamo poi quando sarà. Non ci sono interessi, perché sono senza interessi, almeno così si è letto nel testo. Quindi mi sembra tutta una situazione che cerchi solamente di far un'altra volta presa sui mass media dicendo ho rispettato o abbiamo rispettato la parola data, ma non mi sembra così. Degli obbligazionisti, o almeno sembra così solamente in parte degli obbligazionisti, non sembra affatto così per gli azionisti, e mi permetto di dire, fermo restando che è un discorso un pochino ampio, un pochino in discorso, che comunque perché solo l'Italia? Cioè noi abbiamo una situazione che dal 99 a oggi sono stati, esatto, i risparmiatori italiani che hanno perso qualcosa come 40 miliardi di euro per comportamenti scorretti. È inutile cercare giri di parole, sono stati comportamenti scorretti. Allora a questo punto l'azionista di riferimento fa il suo peso, Picciolini, magari su questo spendiamo due parole nella seconda parte della trasmissione. C'era tra l'altro Foà che voleva intervenire, e volevo ricordare che le obbligazioni oggetto della conversione proposta dal governo sono appunto una tranche particolare molto grossa, i Mengozzi bond, e le obbligazioni emesse hanno un valore di 715 milioni di euro, il cui 62% è tuttora in mano al Tesoro. Foà. No, volevo appunto riprendere questo discorso di Picciolini che mi sembra molto giusto. Da una parte è chiaro che lo Stato si sente più impegnato per quanto riguarda l'Italia, essendo, come abbiamo detto, Stato azionista e avendo lo Stato stesso votato a favore del rinvio della data di rimborso al 2007 e al 2010. L'altra cosa che merita dire è che grande peso hanno avuto le dichiarazioni dei massimi esponenti al governo relativamente al fatto che ci sarebbe stato, nessuno avrebbe perso una lira. Quindi io penso che molte persone che magari, vista la situazione dell'Italia, avrebbero venduto, avrebbero disposto del loro investimento all'Italia, magari non l'hanno fatto proprio fidando della parola del governo. Cioè di peggio, chi in virtù di queste dichiarazioni in quel momento comprò azioni all'Italia proprio auspicando atteggiamento diverso, sul quale ci siamo soffermati a lungo nell'altra trasmissione, però insomma c'è chi ha fatto, anche confidando su un'evoluzione diversa della sorte di Alitalia, ha fatto un investimento di questo tipo. 10 secondi, poi dobbiamo andare velocissimo in pausa. La terza cosa a notare è il silenzio assordante delle istituzioni, e mi riferisco tanto alla Consob quanto al rappresentante degli obbligazionisti, il quale sono passati neanche un'ora che ha entusiasticamente, non si capisce bene con quale titolo, ha aderito alla proposta del Tesoro. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, siamo ritornati su Alitalia, lo so, ne abbiamo parlato tante volte, oggi ci dobbiamo ritornare perché, come vi abbiamo già spiegato nella prima parte di Salvadanaio, il governo ha portato avanti questa iniziativa di indennizzo agli ex obbligazionisti. Non si tratta di un rimborso in contanti, non è un rimborso cash, ma è uno scambio in titoli di Stato e si tratta in sostanza, con un meccanismo un po' complicato che abbiamo spiegato all'inizio, di un rimborso in BOT, CCT, BTP, vedremo, in cambio dei famosi Mengozzi bond che furono emessi dall'Italia nel 2002, dovevano essere restituiti, rimborsati nel 2007, c'era già stata una iniziativa di allungamento e insomma tutto questo ha scatenato un po' di discussione perché c'è chi ritiene questa forma di indennizzo assolutamente penalizzante, lo è di fatto in termini economici, ma qualcun altro invece la vede in maniera diversa, è pur sempre qualcosa se la prospettiva è quella di non riprendere niente. Allora, questa mattina noi siamo tornati sull'argomento con Alberto Foà, amministratore delegato di Anima SGR, che ha organizzato un'assemblea degli obbligazionisti in programma per il 20 aprile, Fabio Picciolini, segretario nazionale della Diconsum, associazione dei consumatori, sempre molto attente anche su questo versante. Tra l'altro Picciolini andrà all'assemblea degli obbligazionisti, appunto sta raccogliendo anche lui con l'associazione dei consumatori delle deleghe, e intanto ci ha raggiunto al telefono l'avvocato Grazia Dei, appunto legale rappresentante degli obbligazionisti all'Italia. Avvocato, di nuovo bentornato a Salvadanaio. Grazie e buongiorno. Per pochi minuti con noi, per cui andiamo subito al noccio della questione che vogliamo affrontare con lei. Allora, ci ha già spiegato Alberto Foà quanto lo faccia infuriare questo nuovo tassello che alla vicenda all'Italia si aggiunge, questa proposta di indennizzo che è da considerarsi assolutamente penalizzante, soprattutto per l'ambito dei fondi di investimento, lui ce l'ha già spiegato. Ho letto da qualche parte invece una sua dichiarazione totalmente contraria. La decisione presa dal governo è qualcosa, dimostra l'intenzione di non lasciare soli gli obbligazionisti, risarcendoli. Se fossi uno di loro, lei ha detto, l'assemblea del 20 aprile accetterei. È così? No, non credo proprio. Questo, oltretutto, così come me lo riferisce lei, non ha nemmeno una consecutio logica. È Finanze e Mercati delle 2 aprile. Sì, è d'avanzo. Ma io quello che ho detto è questo. La proposta del Tesoro non la conosco. Ancora non si conosceva. Se ci fossero delle proposte intelligenti, invece che iniziare un'azione giudiziaria, io opterei per una soluzione transattiva. Ma questo io l'ho detto come professionista e come avvocato, tutto qui. A mio titolo esclusivamente personale, io nell'assemblea degli obbligazionisti intendo mantenere una posizione assolutamente asettica, equidistante da tutti, sono solo un rappresentante processuale, sono un nuncio degli obbligazionisti e basta. No, infatti ci aveva anche un po' stupito, le dico la verità, questa presa di posizione. No, tra l'altro, è un atteggiamento che sto tenendo da sempre. E infatti ce l'aveva anche ribadito proprio nell'ultima puntata, quando io tentavo di farla sbilanciare sulle considerazioni di Foà a proposito dell'atteggiamento di Berlusconi e Tremonti, quando avevano detto chiaramente salveremo la compagnia, nessuno perderà denaro. Detto questo, tra l'altro, per chi intendesse accettare questa proposta transattiva del governo, non è che poi deve dirlo in assemblea o in qualche maniera deve passare anche da lì questa iniziativa? Assolutamente avvocato, no, ne può parlare se ne ha voglia, perché è un'occasione conviviale, ma non c'entra nulla l'assemblea degli obbligazionisti. L'assemblea degli obbligazionisti guarderà soltanto quello che è l'atteggiamento comune che vogliono tenere gli obbligazionisti. Libero ogni obbligazionista di tirare le conclusioni personali rispetto alla proposta che fa andare a fare il Tesoro. Quello che volevo dire, quello che ho detto effettivamente è semplicemente questo: io di fronte ad una causa lunga dei tempi lunghi, se c'è una proposta transattiva decente, buona, io opto sempre per le proposte transattive, ma quando l'ho detto la proposta transattiva ancora non era sul tavolo. Per altre cose non la conosco ancora. Effettivamente non la conosciamo bene anche noi, abbiamo solo le agenzie di stampa. Poi avrebbe aggiunto, cause alternative sono lunghe e costose e in fondo i titoli di Stato sono rivendibili. Questo perché mi era stato chiesto se ci fosse una proposta pagabile con titoli dello Stato. Dico, io la guarderei con attenzione, perché in fondo i titoli dello Stato non sono moneta, ma sono qualche cosa di simile, dipende da quanti me ne danno, da che sentimento hanno, eccetera. Infatti, e allora adesso, senta, io intanto ho anche una domanda per lei, perché altrimenti qua gli ascoltatori non cominciamo più ad ascoltarli. Sentiamo allora Carlo da La Spezia, inauguriamo con Carlo, un po' tardi rispetto alla consueta tabella di marcia, le nostre telefonate dei nostri amici che ci seguono da casa. Carlo, benvenuto a Salvadanaio, 800 24 00 24 per continuare a prenotare i vostri interventi. Carlo, buongiorno a voi. Lei ci fa tornare un po' indietro dal punto di vista anche giuridico, se vogliamo. Io? Sì, no, perché così avevo visto l'anticipo. Io sono un po' confuso, diciamo, in questa lunga vicenda e questa lunga storia, perché ancora oggi, cioè se ne parla tutti i giorni, ma ancora oggi non sono riuscito a capire se Alitalia S.p.A. è formalmente fallita, quindi è stata insinuata, cioè esiste un fallimento processuale, giuridico, o se invece è stata comprata da un'altra azienda, perché sono due cose completamente diverse. Perché se Alitalia S.p.A. è fallita, ha portato i libri in tribunale ed è iniziata una procedura fallimentare nei confronti degli azionisti, ovviamente c'è poca trippa per gatti, come si dice. Ma se Alitalia non è formalmente fallita, e allora il discorso cambia radicalmente. Allora io vorrei che si cominciasse a sgombrare il campo dal dubbio su la situazione formale giuridica di Alitalia S.p.A. E chi meglio dell'avvocato Grazia Dei ce la può tornare ancora una volta a spiegare e a ribadire? Avvocato Grazia Dei, sì, ritorniamo non allora. Non è un fallimento, è una delle tante procedure concorsuali che si chiama procedura per le grandi aziende in crisi. Parte da una sentenza. È stata rivista tribunale. Anche la famosa legge Marzano, no? Per poter permettere un tipo di salvataggio di questo tipo. Sì. Che poi ha avuto una serie di evoluzioni. Quindi tecnicamente l'Alitalia è in una procedura concorsuale, ha un commissario giudiziario ed è controllata come tutte le procedure concorsuali di amministrazione straordinaria. Quello che non c'è una nuova, la nuova Alitalia è qualcosa che ha comperato dei beni da questa Alitalia, diciamo pure tra virgolette fallita, per farmi capire, perché non tutti possono comprendere la differenza tra la procedura straordinaria e il fallimento. Diciamo che il fallimento si chiamano tutte nell'insieme procedure concorsuali. L'Alitalia è in procedura concorsuale. Ecco, l'ascoltatore chiedeva anche, allora, a seconda della dinamica con la quale la situazione attuale di Alitalia viene gestita, ha fatto anche riferimento ad un'insinuazione al passivo. Questa è una fase che la procedura concorsuale ha già superato, avvocato, che adesso guarda ad un altro appuntamento del prossimo autunno. Sì, beh, l'insinuazione al passivo, francamente, l'insinuazione al passivo degli azionisti è qualcosa che ha sorpreso anche me, perché l'azionista è l'imprenditore, è il padrone del soggetto fallito e quindi generalmente ha un credito che viene nel momento in cui la società ha pagato tutti i suoi debiti e quindi il socio ha diritto al rimborso di una quota parte del patrimonio. Comunque c'è un'udienza che è stata fissata anche per la verifica dei crediti dei piccoli obbligazionisti, degli obbligazionisti, e questo bisognerebbe chiederlo al giudice perché l'ha fissato, non a me. Perché, mi scusi, non ho capito l'obiezione? L'obiezione è che normalmente in un fallimento di una società gli azionisti non si insinuano al passivo perché non sono creditori del fallimento. Loro sono i titolari di quello che avanza dopo il fallimento. Sì. Se il fallimento chiude la procedura con soddisfazione per tutti, loro sono creditori. Se il fallimento si chiude con un concordato preventivo che fa tutti felici e contenti, quello che avanza è degli azionisti, prima no. E insomma, è una vicenda che ha avuto un percorso tortuoso da quando è nata e sicuramente non si semplificherà nelle prossime settimane. Detto questo, allora io vorrei continuare a dar voce ai nostri ascoltatori. Avevo promesso che avrei fatto intervenire anche gli azionisti, che peraltro sono stati citati adesso nelle ultime parole dell'avvocato Grazia Dei, però c'ho un altro paio di domande per Alberto Foà. Un ascoltatore, Paolo, dice: visto che Anima ne fa una questione etica, si può sapere quante obbligazioni Alitalia ha nel suo portafoglio, visto che vi siete fatti anche promotori di questa iniziativa? E un altro, un po' più provocatore, dice: insomma, la tattica di Anima è puramente commerciale e molto semplice, in questo modo spera di acquisire nuovi clienti, chissà con che modalità, magari qua me la può spiegare, e al tempo stesso mandare un'immagine di lealtà e giustizia nei confronti dei piccoli risparmiatori. Prego. Ma l'Italia è sempre il paese della dietrologia, cioè si cercano sempre motivi non puliti dietro ad azioni che sono abbastanza lineari. Noi, qualche volta ne hanno anche ragione, insomma. Vabbè, un po' certo, come si dice, a pensare male non si fa mai peccato, però anche a pensare sempre male un po' peccato, diciamo, si fa e ci si rovina anche l'esistenza, e molto spesso si manca di capire quelle che sono le vere meccaniche. Nel nostro caso noi avevamo nei nostri portafogli delle obbligazioni Italia, peraltro in percentuale molto molto ridotta. Riteniamo che sia nostro dovere di gestori cercare di fare il massimo per recuperare delle obbligazioni all'Italia il massimo possibile nell'interesse dei nostri clienti, esattamente come qualsiasi professionista fa il massimo possibile per cercare di ottenere, chiaramente nei limiti della legge, il meglio per il proprio cliente. Tra l'altro vorrei anche ricordare che in passato anche i maggiori casi di risparmio tradito hanno per niente coinvolto l'industria del risparmio gestito, questo dobbiamo ricordarlo, è forse la prima volta che il settore si trova un po' incagliato in una problematica di questo tipo. Beh no, diciamo, i fondi investimenti investendo in azioni o in obbligazioni sono esposti come gli altri e forse più degli altri, facendo questa attività in modo professionale, a eventuali cattivi andamenti alle aziende o eventuali fallimenti. Finora l'atteggiamento è stato quello di dire cerchiamo di non dare troppa pubblicità alla cosa, come se fosse una vergogna, diciamo, avere sottoscritto azioni e obbligazioni di una società che è fallita. In realtà la diversificazione dei fondi fa sì che il danno del singolo fallimento sia sempre molto limitato, certo. Però secondo me è giusto che l'industria dei fondi investimento o i fondi di investimento, cioè i fondi investimento che abbiano le obbligazioni o le azioni di una società che è fallita facciano il massimo possibile per recuperare tutto ciò che è possibile nell'interesse dei loro clienti. Del resto negli Stati Uniti questa è una prassi molto comune, molto cioè difficile. Il cosiddetto attivismo dei fondi molto spesso si rivolge proprio a questo. È in questo senso mi meraviglia un po', diciamo, il silenzio di Assogestioni proprio rispetto a quest'ultima proposta del governo, perché la proposta del governo discrimina in maniera pesante l'industria del risparmio gestito rispetto al fai da te. Vedremo quando ci sarà il testo definitivo, insomma, di questa iniziativa. È venerdì, molte persone saranno in viaggio magari per trascorrere il fine settimana fuori, ma ammettendo che il tempo sia buono. Sentiamo un po' cosa succede allora per quello che riguarda il traffico. Abbiamo dovuto salutare l'avvocato Grazia Dei, andiamo avanti con Alberto Foà e Fabio Picciolini, anzi ho trascurato Fabio Picciolini nell'ultimo quarto d'ora, adesso lo recuperiamo rapidamente per fargli rispondere ad Antonio da Roma e Mariella da Trieste, che credo siano coinvolti nella stessa sorte. Cominciamo con Mariella. Mariella, buongiorno. No, io vi ascolto tutti i giorni e veramente mi piacete moltissimo. Meno male, detto da una donna, Mariella, ci fa sempre piacere. A sì, me. Allora proprio mi rivolgo a lei, allora potremmo fare uno slogan. Risparmio tradito per tutti, questo dovrebbe essere. Ma da quanti anni ne parliamo, Mariella? Lo sì, so. Però guardi, io mi ricordo, adesso volevo entrare nell'argomento, ma c'era uno scandalo che purtroppo anch'io ci ho rimesso tantissimo, è la Bibop Carriere, di quello non si è parlato più. Mi ricordo che c'erano paginate intere su Corriere della Sera e anche quello è stato messo sotto silenzio per non parlare. Diciamo che da cose. Qualche anno nel nostro paese ogni anno ne abbiamo uno che riempie le pagine, guardi, dei giornali. Veramente, vabbè, purtroppo. Allora, sa che cosa? No, io sono una piccola azionista di Alitalia e mi sento maggiormente tradita dal fatto di aver perso tutto quello che avevo investito in queste piccole nelle azioni, che poi il piccolo azionista non ha voce in capitolo, parliamoci chiaro. E l'altra cosa è la vicenda che lo Stato ha dato un altro finanziamento dall'Italia sempre con i soldi nostri, dunque noi piccoli azionisti, il famoso prestito ponte, traditi, che però doveva restituire, decisamente fregati, mi scusi il termine che è un po' volgare, ma siamo proprio fregati in pieno all'Italia. Mariella, le posso chiedere quando ha fatto questo investimento lei? Se lo ha fatto parecchio tempo fa, quindi diciamo non è stata allettata dal fatto che comunque il governo avesse promesso la salviamo eccetera, perché sa, lì io sono sempre un po' polemica con quelle persone che volevano approfittare di quella fase, quindi lei insomma è una persona che invece ha fatto questo investimento in altri tempi, in altri momenti. Ha capito? Sì, perfetto. Sento Antonio anche da Roma per poi sentire Fabio Picciolini. Antonio? Pronto? Antonio, abbassi la radio. Ah sì, adesso la spengo completamente. Stavo bravissimo. No niente, io sono azionista anch'io dell'Italia e appunto io anch'io da molto tempo sono dentro con delle azioni, volevo sapere innanzitutto delle azioni come le obbligazioni ogni ragazzi si riesce a riprendere qualcosa. E poi volevo sapere ecco, la minusvalenza per quanto riguarda quello che uno ha perso sulla Alitalia, se si può considerare e se in ogni caso, anche se non le danno, da quando. Allora la Antonio, cioè, se io adesso guadagno con Fiat non so 10.000 euro e ho la plusvalenza, insomma, se ce l'avesse avute ieri Fabio, Antonio, le sarebbe andato anche bene le Fiat, naturalmente sto scherzando, mi dica. Ecco, io ce l'ho per esempio le Fiat, sto guadagnando, per non pagarci le tasse, in ogni caso ora l'Italia vorrebbe compensare. Non esiste, ancora non dico la minusvalenza neanche Se ne può parlare in ogni caso. Allora. Eventualmente quando? Allora Antonio, andiamo un po' a Fabio Picciolini, vediamo se ci può aiutare lui per questi aspetti, magari così rifacendo un punto della situazione per gli azionisti che, come abbiamo già visto anche in passato, per i vecchi azionisti Parmalat, eccetera, sono rimasti davvero col cerino in mano. Allora, con gli azionisti purtroppo bisogna essere onesti fin in fondo, le possibilità di recuperare qualcosa è veramente del tutto marginale, in quanto potrebbero ricevere indietro il loro investimento solo se la liquidazione, la procedura concorsuale dovesse lasciare sopra qualche soldino, come si usa dire, ma io ricordo che i debiti attuali dell'Italia, della vecchia Italia, sono 2,2 miliardi più tutto il personale in cassa integrazione, quindi non credo purtroppo che ci sarà qualcosa di positivo per gli azionisti, e anch'io non capisco perché non lo prevede la legislazione italiana, non so come sia stato possibile vedere l'insinuazione al passivo anche degli azionisti che non sono dei creditori. La seconda cosa, l'ultimo interlocutore ha detto una cosa molto importante su cui però anche in questo caso la risposta è negativa, lui non ha venduto quei titoli e in questo momento quindi non ha maturato formalmente la minusvalenza da compensare con una presenza. Esistono delle norme fiscali emanate dall'Agenzia delle Entrate che permetterebbero di fare qualcosa, ma è una procedura talmente complicata che dovremmo fare un'altra puntata di salvadanaio. C'è tutto l'ambito poi legato Picciolini, pure questo lo conosce molto bene, dell'azione legale contro l'intermediario che ci ha permesso questo investimento. Per un piccolo azionista non sono molti i casi di risparmiatori che si sono imbattuti in investimenti sfortunati nel passato, che sono stati risarciti in qualità di ex azionisti di qualcosa, però lei la tenterebbe questa carta? Ma dunque, il discorso dell'Italia va visto anche rispetto ai tempi in cui è stato effettuato l'acquisto. Personalmente, se dovessi essere coinvolto, io che l'Italia purtroppo sono almeno 10-15 anni che va male, quindi vorrei vedere, non l'avrei comprato. Chi può dire che ha fatto questo investimento in maniera inconsapevole, dice Lenzo? Esatto, cioè io a un investitore a basso rischio, profilato in maniera molto molto bassa come rischio, sinceramente non l'avrei venduto, quindi questo è un discorso che sicuramente si può affrontare, e noi fra l'altro a chi ci dà la delega proprio per partecipare all'assemblea del 20 chiediamo anche la documentazione per capire che cosa è successo e come è stato venduto il titolo. Peraltro anche qui si dice nell'emendamento del governo, nella nuova norma del governo, si dice che non è possibile nessuna azione, ma si dice contro l'Italia, quindi secondo me non c'è nessun motivo per cui uno, se ha delle ragioni, non possa agire rispetto alla banca che ha collocato il titolo. Sì, tanto perso per perso, insomma, quantomeno è una ulteriore strada che si può tentare. L'ultima considerazione la faccio fare a Franco da Sanremo per poi chiudere con Grazia De, che peraltro ha voluto rimanere anche per quest'ultima parte del nostro programma con noi, quindi magari gli consentiamo 2 secondi di commento finale, così come li concederò anche ad Alberto Foà. Franco, rapidissimo, la ringrazio. Sì, salve. Volevo sapere a quanto ammonterebbe questo scambio obbligazioni con titolo di Stato, e poi vorrei far presente che appunto il titolo di Stato, una volta a scadenza, vanno rimborsati con i soldi delle tasse, quindi con soldi nostri. Franco. No, tra l'altro il meccanismo dell'indennizzo, lo dicevamo prima, è piuttosto complicato. Io credo che dipenda dall'ammontare delle obbligazioni che si hanno in portafoglio. Foà, mi vuole aiutare lei? Sì. Per capire anche quante obbligazioni corrispondono a quanti titoli di Stato, dipende quante obbligazioni si hanno? Beh, certo. Prima di tutto il Tesoro ha, in questa proposta c'è una quantificazione di natura percentuale pari alla metà della quotazione dell'obbligazione all'Italia prima della sospensione. Ora, siccome l'obbligazione all'Italia prima della sospensione quotava intorno a 65, diciamo, per ogni 10.000 euro di obbligazione all'Italia il soggetto rimborsato si potrebbe attribuire circa 3.200 euro di titoli di Stato senza cedola con rimborso al 2012, nel limite di 100.000 euro, e quindi se per una persona, se per un soggetto che ha 10.000 euro di obbligazioni il rimborso sarebbe nella misura del 32%, per un soggetto che possiede 200.000 euro di obbligazioni il rimborso sarebbe nella misura del 16%, per uno che ne possiede 400.000 euro sarebbe nella misura dell'8%, e quindi qui si viola la parità fra gli obbligazionisti semplicemente sulla base della quantità di obbligazioni, sulla base della quantità di obbligazioni che hanno, che io non capisco quale sia la fonte giuridica di questo, di questa scelta, di questa modalità appunto di indennizzo. Avvocato Graziadei, ho 30 secondi di tempo per lei. Allora, è pronto per questa assemblea? Molto, no, ma era solamente insomma in vista dell'assemblea. Non so qual è la fonte giuridica, quindi non ho visto la norma. E mi pare che quello che dice Foà sia pure giusto, perché non sapendo come stanno le cose non riusciamo a dare una valutazione di convenienza o soprattutto di come si realizzerà questa proposta del Tesoro. No. Dobbiamo aspettare e vedere la norma. Io spero nei prossimi giorni di averla e di farvene un'opinione. Ricordiamo tra l'altro come è stato anche originato questo indennizzo. C'era una promessa in qualche maniera di assistere nella cattiva sorte i vecchi risparmiatori che avevano investito in titoli all'Italia. Siccome si è voluta probabilmente rispettare questa promessa, si è potuto farlo in questo momento date le risorse che erano disponibili. Forse questa era l'unica via alternativa. L'unica alternativa che era disponibile in questo momento al governo, non lo so, ne parleremo più avanti di nuovo. Tutti questi soldi per le banche non ce l'ha per gli obbligazioni. Abbiamo chiuso, grazie per essere stati con noi. Ad Alberto Foà, Fabio Picciolini, l'avvocato Gianfranco Graziadei, noi ritorniamo lunedì, buon fine settimana a tutti.